Recco breco, abbiamo il calibro nuovo, cambio. Attento, platinette. Attento, Peppa Big. Attento, Peppa Big. Sono diversi, in effetti non è che piace più di tanto, sinceramente. Oh, cos'è, troppo alta, troppo grossa? Caparrogero, un bel cuppa anche, secondo me, Aspetta che cambio. Eccomi qua, Lucia, questa è la mitica. Caparrogero, 100%. Questo è il K, non si scherza, questo è il 440. Grande radio, grande funzionamento, grande potenza. Vai Luca, lo senti a Luciano? Sì, a voglia. Aspetta un po' di che intanto sto incollando con la colla a caldo. Ai, vabbè, già siamo qua, vai. E dice Lucia? Mi sono uscito adesso dalla Bertellina, prendiamo la 131, direzione Bidda. Ai, va bene. Direzione Bidda, anche oggi hai dato. Caparrogero, poi stasera all'ultimo viaggio, cazzo, mi è toccata una fiuzza un po' particolare, molto da fare a mano, capito? E quindi abbiamo tardato, ma vabbè, non le fare nulla. Sempre catrame e porti tu, no? O altro anche? Di solito oro nero, ma quando capita anche altro, e ce ne fosse. E allora carichi dalla Turritana, no? No, c'è l'impianto dei signori Angius lì a Monte Alvaro. Ah, è vero. No, ma c'è l'impianto anche l'officina Turritana, no? No. Viene da noi a caricare. Quando vedo io... Vabbè, quando era vivo Salvatore Dole, c'era l'impianto per fare il bitume, poi non lo so che fine ha fatto. Non lo so, non l'ho mai sentito. Di solito venivano sempre a prelevare da noi, soprattutto l'officina Torretana, là. Allora serve molto, perché quando aprono devono chiudere, devono sistemare subito, non è che poni la gara. Infatti stanno le aperture che hanno fatto qua su da me a Carbonazzi stamattina, stavano chiudendo col bitume. Vero, sì. Caparrogero, ha fatto anche una bella giornatina oggi, dai. Ha fatto temperatura buona. Ehi, ha registrato il becco, non gridare. Sì, anche domani dovrebbe fare la giornata come oggi, dai. Avanti Brecco, alzati in fretta, avanti. Brecco, a Bozzi, alla buona entra. Non c'è in zona d'ombra con me, no? Non ne ho ombre io. Ma tu puoi avere l'ombra che vuoi, io già ti ricevo sempre. Sono un po' in una posizione un po' strategica, capito? Sono in un grattacielo io, a 52 metri d'altezza, ti basta? Fesserie sono. Io vado vedendo, no, che ho Lucia ieri, mi ero con Antonio Bombolo, ieri sera, prima di cena, una cosa del genere. Ha inteso questo break da lontano, aiuto, aspetta tanto, perché Antonio c'ha una posizione molto bassa, poi c'è l'antenna bassa, qui vabbè, non ce n'è per nessuno comunque, non perché debba essere cattivo, ma è così. Davanti break, ed era Daniel da Oristano, uscimi diretta, Oristano, tambala, quattro gomme a terra, arrivavo quasi a Santiago 9, uscimi, come ti gioco, va vedendo va. Gordurno, già lo credo, vabbè, poi la sera c'è un po' di calma, nel senso c'è meno QRM, là. Infatti arrivava benissimo, lui arrivava 5-6, 5-7 anche lui, senza problemi, così mi convintevate, senza tirarsi un goddo alla radio, per farti capire, carissimo amico, capito? Io non ho problemi, tu vai dove vuoi, io già ti ascolto sempre, non ti preoccupare. Ma è sparito, non lo senti più? Sì, la va vedendo, ragazzi, guarda, cosa hai detto? Come ti chiami? Chi sei? Io sono Claudio Sparviero da Sassari. Rosso su Baramobile, sì. Ciao Rosso, buonasera, ben sentito. Sì, ti ho sentito qualche altra volta lì nella zona di Ploaghe. Sempre io sogno, Claudio Sparviero, noto torre di controllo, proprio per l'altezza. Io faccio atterrare tutti gli aerei qua anche a Milano, vero Lucia? Infatti a Saria ci ha mandato, era nella piana lì di Codrongiano, ci ha mandato Gojo, Fortunato Vacchi, Ho detto sto arrivando a Sasse, stai attento a chi mi ha chiamato, torre controllo. Ho detto torre controllo, risponde, uscita galleria dritto, dritto a terra piano piano, sta attento, la pigliamo pieno guardarela, giù. Non ce n'è. Ah, me l'ho scelta io questa, come stavano costruendo qua a Milano, che ha detto campagna. Allora mio cognato era presidente della Lega delle Cooperative, mi ha detto guarda che c'è la possibilità di scriverti in cooperativa, così e così, ha detto sì, ma tanto bisogna punire. Allora era lì, 5 milioni subito, il resto è stato avanzamento lavori. Vabbè, buttiamoci dai. Buttiamoci, mi sono iscritto nell'83, hanno consegnato le case nell'87, nell'86, fine 86, dai, inizio 87. E cazzo, hanno giubito questa goccia, attendi. Quando abbiamo fatto le prime riunioni, allora il piano è questo, e le assegnazioni sono queste. Ma ti dico dove? No, a me non ho piano, mi serve. Non ho piano lattico, mi serve a me, non voglio altro io. Ma è non, un po' più giù, non ho piano, voglio io, se no. No, tornatemi su, ma sto andando. Cazzo, non gli ho visto piacere. Il primo calcestruzzo che è arrivato, cioè, figurati io sono arrivato qua che era cantiere, cioè aveva luce di cantiere, non aveva manca ascensore, Lucia. Immaginate addirittura Brescia, capito, mi ha fatto la radio. Avvittura la proprio una cosa allucinante. Come è arrivato il calcestruzzo che hanno buttato il cerai, ha iniziato a fare massarde, ha detto ascolti, ma cortesia mi deve fare, sì, mi deve mettere le staffe a muro, due qua, e c'è cosa, lei metta le staffe a muro e metta dentro il calcestruzzo. A vedere subito, e ha giubiazzato, mentre hanno inzarrato tutto, mi hanno consegnato le chiavi, manco traslocato a giù, sono guardato, ha giubiazzato l'antenna. No, buccia di gioca, come si dice, attaccare mano, che pone che molto, giusto. Allora, è sempre lì, Emi, anzi l'ho spostata l'anno scorso da una delle staffe, gli tre ce la sposto un po', ma l'ho messa un po' più all'interno del palazzo. Infatti è tutto pieno di staffi sopra, ma io non ne ho mai messo, messe dall'impresa di chi si trattavano in un tempo, no? Quelle lunghe che entravano dentro il cemento, mi pare sono 20, 30 centimetri, 30 lo cemento, gli riporti domani. Ehi, diavolo, una cannonata avevo, e quindi hanno asfaltato oggi lì, là. Sì, stavano asfaltando, Luciano, infatti c'erano i vigili urbani perché hanno messo i cartelli ieri, salendo verso via Carbonazzi, dove c'è la frutta e verdura lì, dove c'è l'Enel, da quella parte lì. C'erano i vigili perché c'erano ancora macchine parcheggiate, è vero, erano i vigili con lo garattrezzi, i vigili delle macchine. Sì, hanno fatto tutta la discesa dall'inizio della rotonda, tutta da lì, e poi hanno fatto il pezzo a salire dove c'è la chiesa e poi si sono spostati dall'altra parte. Capito? La stanno tutta un po' sistemando, dai. Già va bene, deve essere l'assessore Meazza, fa un po' goidina da investire. Ai ai ai, va bene, a voglia. Attenzione, Rosso, dove sei? Sto andando in pariga, Rosso! Se poi più mentre lo semaforo, Ghito, tutto il ruglio, Dove sei arrivato, Lucia? Magari qua, Zucchi, dai! Ai ai ai, ma passi lì da Macciaguretta, no? Ah, ecco. Ascolta, ma è zio Birillo che fine ha fatto, Boboe, non l'ha già più inteso, Ah, non ce l'ha più la trebbia, non sta facendo più quello. Ah, nel trattore ce l'ha, non l'ho più sentito. Non l'ho più sentito, vabbè che non sto andando manco da mio nipote. Da mio nipote lì a Cosio, dove dire, boh, alla corte, e bari. E boh. Vittorio, dov'è che abita? Che zona è Vittorio? Caglia, zona di Caglia, là. Ma dov'è sempre lì in capo, dove sei tu, Vittorio? Caffa Rogero. No, Giavasi, no, oggi mi ha compreso Giavasi, perché Adamo, vabbè, con la turrettana scavatoista, lui non l'ho mai capito, me lo dice sempre, sì, questo, sì, ma cosa vuol dire, cosa Giavasi? diciamo che ultimamente sta facendo un po' di tutto, dai, quando rimane in cava è al frantoio, se poi devono bettomare va a bettomare, un po' di tutto, ha tutto a fare. E anche perché lui guida il camion, guida un po' di tutto. Positivo, positivo, sì. Un po' di tutto fa. E lo che vedi va. Come il padre, lo Daniele, poverino, ragazzi, si è molto andando a Trentino, ragazzi. Ha fatto un camion in alto, l'ha ficciato, mentre un cane. Lo so, Caparrogero, e con un altro ragazzo anche, Giovanetto. Purtroppo. Lo so, sì, ho morti tutti e due. Lo so. E cosa vuoi dire? Lì all'ingresso abitava di Consolata, però se ne è venuta a Sassari, non vi va di nuda in Chivi. Non mi pare che abita a Porto Torres, no? Scusa, a Porto Torres, sì, abita vicino a casa di mamma, Sì. Sì, Vittoria si è fatta una bella casa, bella grande, bella, c'è un bel posto Vittorio, sì, lascia che devo cavarti di Pasqua, Assolutamente, poi nella strada lì, cancello, entri, sali, bella, ma mi piace anche l'altra che c'è, quella dove ho abitato prima di costruire l'altra, era un bel accogliente quella casa, tu immagina che c'era un cuiri, capito, che c'era un cuiri, dove ci metteva il fieno zio Daniele, capito? Ma già ci ha detto, ma ha fatto una casa così bellina, e ci ha abitato per un bel po' di tempo, e poi ci ha fatto l'altra. Caparrogero, sopra un cucuzzolo, non so se adesso lì c'è qualcuno, ma non credo che ci sia nessuno, magari ci andranno volontariamente gli attivi o la sorella tutto. No, ma da Vittorio non ci abita nessuno, no? No, l'anno scorso c'era mia sorella praticamente, perché la moglie di Vittorio è la figlia di mia sorella. C'era mia sorella, ci hanno fatto l'estate lì, capito? Che è più fresco, nell'altra casa dove abitava prima Vittorio. Però me l'ha detto, no, lo devo affittare, no, non me ne serve di a me di gente in mezzo alle balle, ha detto così. Ma Luca Rabinieri? No, non lo so se è andato in pensione, se è rientrato, non è stato bene Domenico. Anima lunga, cazzo è poco attoci. Ma è l'aggiustamento l'ingaggio giuraggio domenica. Perché lui inizialmente era corazziere a Roma, capito? Lui è entrato l'arma dei carabinieri come corazziere e poi si è fatto strada al ministero. Non lo so se è andato in pensione, non l'ho più chiesto, si è finito, non l'ho più chiesto a Vittorio, la verità. Mi dà anche fastidio chiederlo. Ma è perché lì a Palmadola tu l'hai visto? Sì, lo so. Ci sono infatti tutti in Chivi. Certo che c'è. Devo abbassare il volume, hai finito. Se vuoi abbassare il volume, così no. Sto parlando qua e si mettono a traslare là. Vabbè. Ehi, Lucia, dove sei arrivato? Giovanni Abbas. Sì, adesso ci vedremo, dai, per Natale. Se ci fanno uscire sicuramente, o siamo lì come l'anno scorso, siamo la mia sorella, adesso vediamo. Hai detto bene, se ci fanno uscire proprio. Comunque se capita che vieni da Vittorio, avvicinati con Vittorio, già lo sa Vittorio. Ehi, Lucia, figurati, sono tanto che no, non ci vediamo anche noi. Hai visto Gaetano? Ma Gaetano che fine ha fatto? Non lo so, non l'ho più visto, non l'ho più sentito, o è fine di impresario, non lo so. Non lo so neanche io la verità. Siete tutti spariti, ma l'unico un po' attivo sei tu, l'altro non ha più intesa nessuno, te l'ho detto ieri, proprio non ho più sentito nessuno. Gaetano ogni tanto entrava qua, cambiare il movimento, finito. No, ma è capitato tempo fa, anche di incrociarlo, chiamarlo, nuda, ho visto che c'era l'antenna, però non ha risposto, evidentemente era smarcato. ho detto, oramai, con i telefonini, cosa sai chi via a Puni Baracchino? Abbiamo parlato ieri, no? Pochissima gente ce l'ha oramai il baracchino nella barra, lo c'ha. No, no, anch'io sono dello stesso parere. Io se non ne ho voglia di accendere non accendo, però se entro in stanza e non vengo in radio mi intendo male. L'antennavo poi l'avevamo piazzata noi, ho fatto anche un pranzo lì da lui, una bella giornata veramente abbiamo passato, sono andato io con Gigi Vulcano, barra agricola c'era. Cazzo va, che adesso i baracchini tutti colti, tutti modificati, cazzo non è tratta manco uno, ma ne sai tu, una cosa delle belle comparate a fa, a lampazze le dirà. Me lo ricordo, Luca di Montenura, ma tutti parlavano da quella zona, un bel di gente c'era. A voi c'è tutti i pariti, hanno fatto l'entrata del Leone ci dava mazzone, ma non di altro. No, Lucia, avevo 14 anni quando ho iniziato a parlare, io ne ho 61, quindi penso che ho un bicicletta, perciò penso che basti, no? Cioè, la passione è quella. Caspita, il tempo è tanto e non mi sono mai allontanato io da qua, mai, nonostante abbia preso l'altra licenza, ma ho tenuto sempre come prima cosa questa, dell'altra è un'altra cosa, ma io sempre qua ho tenuto conto, capito? Ciao Lucia, un abbraccio, a presto, buon rientro, buon tutto, ciao. E beh, finito Edici di Conà, e pa' big. Aspetta che me, intanto mi sono fatto anche il foro più grande a quel microfonino, non è ho capsule così piccoline, mi sei miniatura qua, di quei microfonini, capito? K-K. Ma cosa ragazzi, sacrificavi quel calvetto che c'hai già pronto, mi lo dagli il rubetto che ci arrivi al microfono e te lo colleghi a un microfono di quelli di baracchino che non sia molto grande, capito? Esce una cannonata, l'avevo fatto io, 2 minuti ci vogliono, 2 minuti, devi capire qual è il filo da collegare per la portante, per la modulazione, e boh, io l'avevo fatto così, non mi piaceva perché era piccolino, poi scia mare, aiutava nel rodaglio, ho ottenuto il connettore, mi ho tagliato dove c'è il coso, capito? E ho collegato a un altro microfono che ci avevo della Midland, una cosa del genere. Ma non è palmare, è una cosa fissa e boh, invece li portate lì, così uno rimane dentro e l'altro quando c'è fuga. Aspetta un attimo, mi sta chiamando mio figlio la soffitta qua. Ehi, già sono qua. Il coso del microfonino, però se tu mi hai detto che la modulazione, aspetta, metto il suo antennino un attimo là, che così mi dai un controllo in là. Ehi, c'era anche Natalino poco fa, c'è chi ha mancato, non risponde nessuno. Va bene, è acceso, chiama che così ti do il controllo, vai. Se ce l'hai acceso, aspetta, mi sto avvitando il suo antennino, mettevo il microfonino che ha allargato il forellino della cosa, perché capsule così piccoline non dappo. Allora, vediamo un po' se c'è qualcuno intanto. attimino, mi sono dimenticato una cosa di mettere. Vai. Cazzo, non c'ho... Non puoi fare a credere, giù posso... Non troppo senza Bonello, BTT. Oh, sei andato... Ma che c'ha favita? Ops, e manca che cosa, no? Silvia, mi stai rincoglionendo, eh. Dai. No, va già acceso. Aspetta, che lo devo di nuovo aprire, però. Aspetta. Ho due foto, io sono due foto di Sassari, sempre, da sempre, da una vita. Allora, rientrateci dalle vacanze, eh? Vabbè, sì, parite, sì. Lavoro mobilità, allora, va bene. Non mi servono... con Luca facendo due prove in PMR e basta. Siamo qua, non problem. Vittorio Lugo Seccano. Allora è Vannino. Ma Vittorio Vannino, Lugo Seccano. Ah, è teso, la cittadinanza ha pigliato i chitarmi. Infatti, me la dovevo mettere, dice, ma vai, pensa chi mi dici. Boh, ecco, carabinieri. Ah, Mani, e se ci pensa ai ghibi? Io mi genere della guipa, se io ho iniziato prima, o magari ho iniziato anche prima tu, non lo so, io il prossimo mese ne ho 61, però ho iniziato abbastanza giovane, quindi penso di avere dato, non è che me ne regalato un bel, per carità, anzi, me ne bugato un bel, però sto bene lo stesso, almeno sono a casa, andavo a combattere con i matti. E infatti, ognuno sa di sé. Io ho fatto una scelta, potevo anche rimanere, non è che mi stai tutto pure, potevo anche rimanere, ma ho fatto una scelta. E mi assumo le mie responsabilità, naturalmente. Va bene così, non problema. Sì, ho sentito, non sapevo dove, però non ricordo con chi stavo parlando, non avevo più sentito, forse Franco me l'ha detto, che non avevo più sentito, ma Tomo sta lavorando fuori, però non mi ha detto dove. Capito? Va bene, ottimo per la truppa, bisogna andare dove c'è lavoro, altrimenti è un casino. Sei rientrato definitivamente o devi ripartire, Vanni? È bel posto sì, non è bella solo la Sardegna, ce ne sono tanti di posti belli da poter lavorare, da poter andare, capito? Vabbè, comunque. L'importante è che ci sia lavoro e che ci viaggi poi, o se ne affutti in via, se a 200, a 300, a 10.000 km me ne affutti assai, basta che ci sia lavoro, io grazie a Dio l'ho sempre avuto qua. Però no, in questo contesto non lo so cosa sarebbe successo, perché i miei colleghi stanno lamentando tutti, cioè non si buttava gli aghi, se li vedi. Prima erano in due, in macchina, adesso sono da soli, gli impianti devono seguire da soli, i lavori devono fare da soli, in caso di emergenza arriva la squadra, butti cazzo mascherine, tutte mimetiche, mitra e pistole, ma non sta via. C'è stato travagliere, ma vi ho fatto più maradia che travaglio, per carità, abituato come ero io al Pascolo Bravo, viva di Miro, si muove un bosco a fare il suo travaglio. Boh. Meglio così, vai, maestro a casa, ma oggi gubata con le macchie, è vero, vai Luca. Prendete voi fra sto chiudendo sto cavolo del microfono. Ehi, già non si rompa nulla Luca, no? Già non ci butta niente, già va bene. Kappa, va bene. Uiaia. Il tempo com'era lì, Vanni, buono oppure brutto? Già lo so, ma sempre nell'ambito del tuo lavoro, nel senso di quando eri a Porto Torres, oppure manutenzione idraulica, quella roba lì stai facendo? Sì, tutto si può fare, abbastanza bello va, sicuramente lì a doppio di politirene, già ti sei muovere bene, Vanni, fai, tranquillo. Ma la società è la stessa che eri a Cosio, qua in Sardegna, o è diversa, un'altra società? Ma nel villaggio c'è anche l'impianto di depurazione, hanno un depuratore a parte, perché io mi ricordo quando ero a lavoro viaggi, soprattutto quello di Padunetta, di Marinetta, i corsi così, c'aveva un depuratore suo, anche lì funziona così. Addirittura, giorno lì che non si invade più, mi sono lavagna. Quindi l'impianto era praticamente a fanghi attivi, a letti di decantazione, il processo normale come sempre, però l'uscita, anziché essere trattata, era sempre reflua. E Vanetti, ho capito, ma sai benissimo che io facevo quel lavoro. Nel depuratore, no, c'è l'ingresso che è la griglia e poi praticamente dall'ingresso alla griglia va in equalizzazione. Ok, dall'equalizzazione andava nel sedimentatore o avevate qualche altra vasca, cioè come cazzo andava trattata quest'acqua? Perché va bene la parte della colorazione e non ci piove, ma se non passa nel sedimentatore praticamente leva va via schifo. Quindi sicuramente avevate equalizzazione e sedimentazione. Sì, quello che c'è a Fiume Santo c'è il chiarificatore anche. Quello praticamente fa equalizzazione, sedimentazione e chiarificazione. Da lì poi salta dove ci sono i cosi a balena, no? Come si chiamano? Tavolino di impressa, comunque i denti, dai, infatti la mia ricetta, vedi, salta l'acqua che cammina nelle canale, sì, l'ho vista e ci ho anche lavorato lì. Quando ero con la Turritana io non andavo lì a fare le analisi. Va bene, va bene. Ascolta, il trattamento fanghi invece dal sedimentatore le tiravate fuori i fanghi, cosa ci avevate? Letti di essiccamento oppure a fanghi liquidi, autospurgo? Sì, quando sono così, che magari c'è poco ingresso, io ho trattato impianti di depurazione e nel periodo estivo tu prendi quello di Santa Maria Covina, c'è Valedoria, che nel periodo invernale 3.000 abitanti, cazzo, nel periodo estivo è di 15.000, 20.000, 25.000, quindi sì, ha tramato praticamente, sì, dal sedimentatore ha tramato direttamente sulla canala. Sì, ascolta, il sedimentatore cos'era? A Imhoff col cestello centrale? Esatto, è tipo quello che c'è a Coso, a Valedoria, quelli vecchi a Coso, a Imhoff. Vabbè, però se funzionava il trattamento, magari l'ingresso, sai, era poco, perché dipende sempre il trattamento, poi del lavoro che fa il depuratore, dipende sempre dall'ingresso che hai, quanti metri cubi entra l'ingresso, perché più ingresso c'è chiaramente, più il sedimentatore deve lavorare, l'equalizzazione deve lavorare, e quindi avevate soffiante, non turbina, direttamente a piattelli da sotto soffiava l'aria. Ma lui c'è una cagata, non ossigena bene, gli impianti che funzionano bene sono praticamente dal piano di terra ci sono tutti i tubi collegati alla soffiante, praticamente al compressore soffiante, e ci sono i piattelli e mandano l'aria deve uscire da sotto, l'acqua non da sopra, così non ossigena niente. Voglio vedere i parametri, l'ammoniaca, i nitriti e i nitrati, chi verano chi sono, chi si impianta, baccarina. Comunque se tu mi dici che linea di massima ce l'avete fatta e avete lavorato, già va bene lo stesso. Sì, quello è il sistema come c'è a Lubagno, che vanno eliminata turbina girante, sfioro d'acqua praticamente 20-30 cm, però fate un bel di schiuma bianco, fa perché aumenta un po' l'ammoniaca, capito, un casino. Invece così come avete fatto con le Fiume Santo, noi ce li avevamo tutti così, gli impianti nuovi, praticamente con la soffiante a piattelli da sotto, e quindi soffiava bene, anche perché il sistema dell'ossigenazione di un impianto di depurazione non è che tu puoi pagare la soffiante attesa 24 ore su 24, ci vanno dei tempi, ha bisogno di pause, perché altrimenti ti aumenta l'ammoniaca, più aria entra, più soffia, soprattutto nell'impianto di equalizzazione, la vasca di equalizzazione, aumenta parecchio l'ammoniaca, capito? E poi intendi viaggio, quindi devi avere le pause per poter consentire che l'ammoniaca si abbassi e dia praticamente spazio anche alle scherichiacori, che è quello che mangia nitriti e nitrati, quindi è tutto un sistema un po' che i chimici già conoscono, ma io lo facevo perché i chimici noi non ne avevamo, noi eravamo conduttori di impianto, ma facevamo in tutto analisi, controanalisi, campionamenti e balle varie, ma soprattutto nel paese tuo, Sant'Antonio mio, grazie, quante bestemmie ho fatto in quell'impianto con Sortire, Sorso Sennaro, cazzo che fa carità, adesso l'hanno messo a posto, ma quando sono arrivato io a Sorso c'era un casino di Gesù Cristo, proprio per il sistema dell'aria, perché non si riusciva mai a stabilizzare il fatto dell'aria, e quindi una volta poi è venuto il biologo col chimico e gli ho detto ascolta, cazzo mettete un timer perché non si può stare, cioè troppa aria, sta entrando troppa aria, sta dando troppa aria, ci vuole un po' di pausa per far sì cazzo, che non salga l'ammoniaca, avere un fiago non si muri a sacco. Parametri erano i gatti due. Sì, tu ci andi. Stiamo cercando uno a gestire la parte di depurazione, avvisami. Il mio vostro, mi vuole un po' di dinà in più. Capito? KK, sì, sì, è l'ARPA, c'è Vanni, è l'ARPA, c'è l'ARPA, c'è oppure c'è la provincia che ti dà l'autorizzazione allo scarico, ma chiaramente l'impianto che sia a norma, così è una gestione tua. Addirittura il dissalatore, io il dissalatore l'ho gestito, quello della Ginara, lì andavo il mercoledì, il martedì e il venerdì a cambiare i filtri guard, a cambiare le vasche del dissalatore, a pulirle, a farle, e anche quello è un bel lavoro. Va bene, dai. Ti lascio allora, Vanni, piena libertà, un abbraccio grande, fatti sentire, allora che sei rientrato, intanto siamo sempre in Oga, quattro guasti e tre vecchietti, con tutto rispetto, siamo sempre qua, dai, non c'è problema, ok? Ciao Vanni. C'è Sargenti, Edo Batti da Romanzano con lo saldatore nello spegne la sera, vai. Ciao, te lo saluto io dopo, ciao Vanni. Peppa Big, dove sei? Con chi sei? Sei per sei? Sei qua o sei là? Io sono qua in ascolto, vi sto guardando la partita, ok? Io sono qua, Lu. E sono anche qua, sono. Oh, via. La partita mi sta guardando. Ehi, ciao. Ciao, Mancilia. Come andava la partita? Ciao, vabbè, già ce l'ho auricolare. Ehi, oia. Pappa gappa. Ma è un solo, Claudio, sul radio? Alla grande, non problema. Cappa. Va bene, va, ok. Ehi, ehi, ehi. Se senti, c'ho l'auricolare, c'ho col capo lungo attaccato alla televisione, se no non possiamo mai dar nulla. C'è la Champion, Dinamo Kiev, Juventus. Ecco, no, vabbè, io non ho più di... Cioè Sky ce l'ho, però non ho più lo sport, va. Io va, proprio di culo, di culo, perché l'hanno agganciato venerdì, perché avevo fatto la sospensione io, non c'era Serie A, già, l'hanno agganciato venerdì. E quindi oggi la prima partita di Cipio la stanno andando, della Juve la stanno andando su Sky, se no la danno su Canale 5, capito? Ah, ecco, ok. Ascolti, volevo dire, per quella cosa che abbiamo parlato al telefono, no, che mi hai chiesto, ci possiamo vedere, se a te va bene, non domani, ma dopodomani. Io sono libero tutto il giorno, perché domani lavoro di giorno, però poi da dopodomani inizio i turni di notte. Devo fare un lavoro lì a Canica, dietro la ferramenta di carbone, capito, per la ferrovia. Ok, va bene, dopodomani. Anche perché domani c'ho un po' di impegni, quindi non sarebbe stato fattibile. Capito? Perché alle 11 devo essere a San Camillo, devo accompagnare Anna, che c'è la visita per l'invalidità. Sino a quell'ora, sino alle 10 devo fare un po' di commissione a mio cognato. Comunque dopodomani non prendo impegni. Ti chiamo, ci prendiamo un caffè e facciamo quello che dobbiamo fare, ok? Sì, io poi, vabbè, domani no, non va bene perché domani lavoro di giorno. Ok, quindi domani mi devo preparare tutto il posto e poi inizio da domani, è mercoledì, quindi giovedì notte, inizio giovedì notte, venerdì notte e poi salto lunedì notte per una ventina di giorni, va. Eia, quindi non domani, dopodomani, giovedì praticamente. Eia, giovedì io sono libero, diciamo tutto il giorno, vabbè la sera mi collico un po', però durante la mattinata ci possiamo vedere, capito? Eia, si conferma. Si conferma, già ci aggiorniamo magari al telefono, sia che mi ne rimetti il gheggio, ma non c'è problema, Dopo che porto il cane ti telefono e ti raggiungo, capito? No, va bene. Così se continuano queste giornate belle faccio quella prova che ti ho c'è problema qua. Quando vuoi, già lo sai. Vabbè. No, ancora le balle, cazzo. Perché ce l'ho dietro alle spalle la televisione, capito? Ah, potrei dire, guardati la partita, qua non ti preoccupare, guardati la partita, non è un problema, va. No, vedo riflesso nella cartina geografica. Però c'ho l'auricolare, perché ero in radio poco fa, quindi mi ho messo l'auricolare, che c'ho l'auricolare lungo, attacco alla... quindi proprio solo le figure. Cazzo, già tre gocce ha mangiato la Juventus. Già sto seguendo così su Facebook, qualcuno sta già scrivendo cose. Ma della Juventus? Io l'abito malato, boh. I Juventini sono malati, sportivi bisogna essere. Sta giocando con la Dinamo, no, non è che sta giocando con Rizzo. Poi è anche fuori casa, perciò. Comunque sta giocando bene, padrone del campo, sta giocando bene, non c'è Ronaldo, c'è Morata. In attacco Chiesa e Curuzzesco, cazzo non riesce mai a dirlo, vabbè, Curudondo. Ti faccio una domanda, TMV7? È una bellissima radio a colori. Lo so. Lo so anch'io. Mi è sempre piaciuta, però avevo un costo e ancora oggi è abbastanza costosa, perché la volevo mettere in macchina, invece non l'ho mai presa. Sono andato su altre meno costose. Gran bella radio, sì, gran bella radio, c'è un bel display grandissimo, enorme. Ce n'è una bella, nuova, non so se ne è che tanto. Quanto? 160. Non costa niente, mi avesse funzionalmente giusto, se è tutto in regola, se è tutto a posto, perché quella fa un sacco di cose. Siamo sempre lì, mi sembra il discorso che l'ho già fatto, no? Inoltre che io compro delle V e delle U, a questa cosa, l'URM, tutto atteso, Massimiliano, tutto atteso, UHF, QRM, cambio, aspetta, ecco qua, UHF, QRM, cosa cazzo le fai? No, vabbè, l'ho vista così, non so, mi ha tirato perché c'ha questo display blu gigante, sì, è carino, va. Display, sottofondo del display, c'ha un display grande quanto il 706, grande così, molto bello, anzi più grande pure, il display è azzurro, ma le scritte sono a colori. Vabbè, le scritte non si vede. Ma questa cosa fa? HF o VHF? VHF è DMR. Cosa? No! Non siete VU? Molto spazio, parte da 130 in VHF sino a 180, quindi c'è anche le bande aeree, tutto completo, e poi mi sembra che parte da 300 sino a 500 MHz. Ah no, era il mercatino, la natura del mondo HF, allora questa è un'altra cosa. Sì, VU, sì. Sì, la conosco. È 45 watt in V e 35 watt in U. Ma è una bella radio, perché è un'ottima radio, forse una delle migliori che ha fatto la Icom, come bellezza e come funzionalità, capite? C'è un paio di animatori, quello vicino a te mi ce l'aveva in macchina, poi anche l'altro, e qualche animatore già ce l'aveva. Va bene. Ah, non è della Icom, è Kenwood TMV7. E quello della Kenwood, ma c'è anche quello della Icom che è simile a quello lì, e ce l'hanno, quello non lo fanno più, non è più in vendita, però c'è, hanno fatto quello della Icom simile a quello, anche perché la Kenwood non c'è più, è fallita, ha comprato tutto la Icom, capite? Quindi la Icom ha fatto quella bella Icom, la IAESO, ha fatto quella radio simile a quella lì. No, stavo lavorando Facebook così, scorrendo, mi è apparsa questa radio, mi ha tirato c'ha il display, vabbè, colore blu. Sì, colore blu, colore blu, frontale estraibile. Già va bene. Kappa. Non c'è nessuno in radio, eh? No, non sento nessuno. Avevamo io Luca, mi ho fatto due chiacchiere con Vannino, che è entrato, che va fuori per lavoro, e basta. Poi mi c'è la radio accesa, qua, nel 10, nel 23, nel 20, non va nessuno. E vabbè, ci va bidio l'ingombra della sciamà, chi vuole entrare entra, chi non vuole entrare rimane alla porta. Non si può più, la dici, non da, aspetta. Ok. Se ne va la potenza quasi oggi, ma non va innesca pure, stai innescando. No, non ci avevo la mano, guarda un po'. È troppo basso. Guarda un po' qua. No, vabbè, ma chi la mano devi dire? E vabbè, quando schiaccio il PTT, vabbè, sarà tu con me. Va. Non lo deve fare, io schiaccio il lock e mi allontano la mano, non lo deve fare, cazzo. C'è qualche rientro lì, maledetto. Vedrai che quando sposti quella radio da dove adesso la metti dall'altra parte con la scrivania nuova non lo fa più, vedrai, eh. Anche io sono convinto così. E vabbè. Non lo fa, tranquillo, perché lì è troppo vicino ai cavi del router, del modem, di cazzi e mazzi, capito? Mentre invece se la metti dall'altra parte tu vedrai che non lo fai, sicuramente. Ehi, andate. Io sto usando il 14 con lo SM20, non va bene? Vai, schiacciati molto, vai. A tre volte lo video. Ecco, 140 con lo SM20, con l'adattatore. Alla grande va, alla grande. Quindi, adesso accendo la luce e ti faccio la foto. Tu vuoi vedere. C'è il tuo, vabbè, l'MBP5, quello là sul 430, MC60 sul 440, SM20 sul 140, l'altro MC60 sulle V e sulle U della Kenwood. E fammi un video mentre stiamo lavorando con questo SM20, che lo voglio sentire, che lo voglio vedere. No, aspetta, e cazzo tu non mi credi mai a me? Sono anni che io faccio le prove tra Icom e Kenwood. Aspetta che accendo la luce e ti faccio un video. Fammo, va. Ti schiaccio la portante, ecco qua. Ok, aspetta che ti faccio vedere il 140 che sta modulando, vedi che è trasmissione. Aspetta, do un po' più di luce però. Scusa un attimo, do un po' più di luce. Aspetta, ecco qua, ecco qui, non si vede una minchia. Ecco qua, 140 SM20, vedi che è schiacciato, guarda il mio dito, lo vedi? Aspetta che te lo mollo, ecco, guarda, tu te ne accorgerai. Ora, 1, 2, 3, prova radio, ecco, adesso ti mando il video. Ehi, acclamando, sono qua. Cazzo, lì c'è un bel microfono, un bel video. Non posso immaginare mentre lo guardi il video. Io te l'ho detto, cosa c'ho. Comunque già si vede che sto usando l'SM20 con 140 e ho fatto anche... Fabio, guardati il video. Quando mi arrivi, sì. Non ci manco mandato ancora. Aspetta un attimo, aiuto, facci. Eccolo qua, c'è carica. Non lo so, caricando sta, vediamo. Ma quello che ti ho mandato io, visto là? Non va vedo, Sì, dai. Io ho già mandato, sta caricando, abbi qualche secondo, l'ho mandato comunque. Una favola che non l'avevo già provato, l'avevo provato anche Luca sul 430 l'SM20, va molto bene, chiaro devi avere l'adattatore Kenwood Icom, se no non fa, devi cambiare le connessioni, ma io ce l'avevo, non mi intendo. Ma ci ho fatto bui. Quando ti arriva il video lo vedi. Va bene la radio? Sì, va benissimo qua. Va bene. Io ho voluto accendere il faretto e fa luce che c'è qua, cazzo. Comunque già si vede, non è un problema. Cap. sta gatta, è una benevena. Senti che ascolto un messaggio vocale, aspetta. Ehi, fra un po' ti arriva il video. Sta caricando, si vuole andare, tu guarda il bref. Aspetta, devo scendere giù che mi hanno citofonato che c'è Daniela con la spesa, l'ho aiutata. Se in caso ci sentiamo dopo, ok? Ehi, guardate il video dopo, tanto devo andare a portare il cane. Non mi arrivi tu nulla a me. Sì, sta caricando, già ti arriva, non ti preoccupare. Ok, a dopo, ciao. Ciao, ciao, a dopo. Massimiliano, ci sei? Massimiliano? Massimiliano? C'è qualcuno? Aperto! Ehi Luca, buonasera! Aspettando! Tanto mi ha appena finito di fare la doccia! Ruia! Appena finito di fare la doccia! E tu? Mi ha appena detto a casa e devo controllare il televisore! E cosa fa? Marrà, ma perché ti intendi anche il televisore? So, come marrà, già. Cazzattine mie, attenzione, no? Cioè, cazzattine. Vabbè, bisogna arrangiarsi, burro. No. Ui. Meglio lo saperti, dai. C'è qualche problema, te lo dico. Eia, che bagheba. Stacco. Anche io molto. Cazzo, non riesci a comprendere il cazzo, arrivi la sera, le stazionali si abbaccano, come te c'ha ragione. Mattina ce l'avevo, qua c'è 1,5, adesso l'ho abbassato. Ma l'umidità li fa bene. A voi. C'è che sono in gioco io, quanto sai che hanno abbassato? Parecchio pure. Cavolo, dico la verità, ce l'ho da domenica, ce l'ho questa antenna, ma sono soddisfatto, sento tutti bene, non ho problemi di ricezione. Ma poi anche la zona, dai, c'è una zona buona. Insomma, un po' più fussato gioco io. Di prima. Ho scattato sopra in piazza con la Mariani, guai. E anche lì qui sono alte, fa un pochettino più coso. Allora già il Rumatesi, già il voce Rumatesi, già mi faccio sentire a voglia. Però mi sono accorto anche di un'altra cosa, che non ho più frusci di niente con questa antenna. Anche col microfono che prima non usavo perché faceva ritorni di ieri. Un bel ritorno, adesso non ce l'ho più. No, cioè va bene tu. Va bene, va bene. C'è stato un attimino, voglio vedere una cosa, no? Allora, che è il televisore? Di Google, ok. Riesci a vedere? Vuoi Google? Ah, via. Vediamo un po', non ho lasciato mai i canali. Che ciù, che ciù, ciù, che ciù, ciù, che ciù. Mi sa bomboni, no? Ui, bomboletta! Buonasera. Buonasera a te. Ma come ti che si torna a piazza lo bombi quando avevi questa guida? Vabbè, oramai. Mi c'è si bene, con quella terra roba, già lo sai. La voglia. C'è pure l'avanzo lì. Sì, non mi basta mai a me. Vabbè, quando c'è vai a casa tua. Ti metti una bella antenna grande, ti piazzi una bella VU, ti compri gli apparecchi che devi comprare, piano piano si fanno le cose. Io ho iniziato con 23 canali, figurati tu, per avere i primi 40, 120, 200 canali, ci ho messo una bellezza di 10 anni, figurati tu. Sì, perché allora si era anche più povere. A me nel 2009 mi è venuto 200 mila lire, se non mi ricordo male. Hai capito? quindi figurati tu. Vabbè, c'avevo voi apparecchi, perché c'avevo il Bucio 31, c'avevo voi i 23 canali, c'avevo il multimo del 3, rubasso, F2.50, poi cosa devo, allora me la metto più, ne ho avuto a Palazzi, ho avuto anche la multa per aver avuto 12 palazzini che erano miei, in più lineare BVC 31, era acceso, ma tutta la notte acceso, l'avevo preso qui in vera in via del Zitto. Chi c'ho però, insomma, vanno di tutti i muro. No, mi voce tutto tu, no? Era sempre in stand-by la notte. Dopo di giorno, di mattina, non facevo nulla. Vabbè, dove abitavo prima parlavo tranquillamente con la zona di Cagliari, Marco Ver, Nuoro, Mosa, Posa Marina, dove abitavo prima arrivavo in tutti i posti, dove sono adesso, Marco Motto ci arrivo, addirittura parlavo con Tempio, la più bassa dove sono qui, mi figurati, era una zona aperta, il discorso è quello lì. Dove abitato tu, in via Rizzetti, in quel palazzo che c'è più sopra, appena più sopra del manicomio? Forse ho capito, dove c'è l'ottoficina, cioè che di ferro, di filo, quello lì è abitato, lì. Oh, sotto il bar che c'è, anche lì, sì. Ho capito. Io ho abitato io, che poi il fruttivendolo che è venuto lì a lavorare, tanto tempo fa, è a Cibi lo stesso. Figurati tu. Quindi eravamo tutti cibini in quella zona. C'avevo altri due tranvieri, due fratelli che sono andati qui, e davano a baracchino lì dietro, poi ci ha abitato il mio amico il Monsignor Saba, Roberta, figurati, e che tutto pieno di cibi era quella zona lì, via Matteotti c'era, come si chiama, Lollo. Che faceva la pasticcera, tutto pieno di cibi era la zona lì, dove abitavo io, via Napoli, la Polana di Coso, di Giuseppe Pellatre. E a Giubù Predio. Cavolo! E gli avvenirani già. Ma quell'antenna alta che c'è in via Napoli, di chi è? È di un allevatore, quell'antenna alta che c'è lì. No, la verità non te lo so dire come si chiama, lo sa solo Claudio. C'è una bella antenna, quando io abitavo lì ho avuto discussioni con lui, perché lo sentivo tranquillamente, quando andava in 10 metri io lo sentivo. A un certo punto mi sono lamentato, ho detto ascolta, a me non mi sapere che tu hai detto pompi e ti senta ai 27, ma io sono arrivato, tu chi se ne frega, gli ho detto scusa. Io ti sento, se permetti, se tu non mi diminuisci io vado, mi compro un lineare e attacco lineare, se siamo vicini ti allacci. Poi è nato il bombolaio dopo un bel po' di tempo, quello che c'è di Beato Vatti, poi c'è stato il CB di vicino, è a Piero. Ma loro però modulano in 43 MHz, non modulano in 27, mi pare più corta di Sant'Antonio. No, lui entrava in 27 prima, gli hanno sequestrato il Saturnecco, gli ha detto se è stato un imbecille, ti ha fatto prendere. E lui ha detto cosa ci vuoi fare, cosa devo fare? E lui ha detto il foglio delle... gli ha detto per toglierti l'apparecchio sotto sequestro, il discorso è quello, ha detto dal tribunale, aspetta che mi stavo chiamando al telefono, 2 minuti. Luca, ci sei? Sì, io ci sono, ma sto lavorando. Chiappa. Lavora. Problema. Ui. Adesso aspettiamo la da adesso, va. Ti lascio lavorare. Sì, io ho lavorato anche stamattina, ho fatto la giornattina e lavoro anche adesso. Ti si ferma e per tutto. Tu che sei centrato la paglia, devi darti la paglia. 3 anni fa mi ricordo che cazzo eri peggio del peggio. Cioè, adesso grazie a Dio ti sei tirato su, meno male. Tutto senza dina. Adesso meno male che ti sei dato la fare. Ehi vabbè, anche se non lavora in casa. Lavora, si fa le sue cose via. Ehi avanti. Ecco, sei tu.